han venido periodistas de muchas partes del mundo y se han preocupado de la parte, digamos, anecdótica de esta guerra de guerrilla. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. De un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. Variabile Fahrenheit, seconda parte sulle musiche e canzoni di lotta latinoamericane. Quello che abbiamo appena sentito era il saluto del giovane medico argentino Ernesto Guevara al popolo cubano, trasmesso dall'emittente clandestina Radio Bemba dalla Sierra Maestra, dove incominciò la guerra di guerriglia nel 1956-57. Un saluto di un popolo che, come disse, conosceva solo attraverso le azioni e il pensiero di Fidel Castro. Se mai è stato possibile che la voce di un popolo sia stata raccolta in quella di un uomo, questo è accaduto al popolo cubano con Carlos Puebla. Musicalmente parlando, le melodie sono semplicissime, in genere eseguite dalla chitarra acustica di Carlos, caratterizzata da un'incredibile pulizia di esecuzione, e accompagnata a volte da una seconda chitarra e supportata da leggerissime percussioni. Ma quelli che hanno reso grande Carlos Puebla sono stati i suoi testi, di una semplicità estrema ma al tempo stesso di un'incisività impressionante, appunto come solo la voce di un popolo sa e può essere. L'opera di Carlos è ispirata al riscatto degli oppressi contro i poteri forti e gli sfruttatori. In questa prospettiva è chiaro che i riferimenti a Ernesto Che Guevara sono elementi imprescindibili di questa poetica rivoluzionaria presentata in musica. Il 3 ottobre del 1965 Fidel Castro lesse pubblicamente la carta di despedida del Che, la lettera di addio, mentre l'argentino si trovava ancora in Africa, in Congo, nel tentativo di fare una rivoluzione. Tornato a Cuba in incognito, pochi mesi dopo, partì poi per la Bolivia con lo stesso obiettivo. Carlos Puebla allora scrisse una canzone per il Che, o meglio, la canzone sul Che più famosa, più cantata, più tradotta e più ascoltata. Hasta siempre. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che. Thank you.

que es libre, la quiero más. Qué linda es Cuba, Cuba, qué linda es Cuba. Ahora sin Yankee la quiero más. Siamo ora in Messico. La cucaracha, che in spagnolo significa scarafaggio, è una canzone tradizionale spagnola antichissima, alcune sue versioni risalgono alla fine del 1800, ma è nel 1913 che si è prodotta una vera rivoluzione nella canzone. Questo è molto naturale perché successe durante la rivoluzione messicana. Alla canzone furono aggiunti infatti dei versi di scherno contro il generale Vittoriano Orto, vecchio malandrino, strisciante, ipocrita, strambo, ubriaco, ridicolo e malvagio. L'unica cosa di buono, riconosciuta da tutti, della vita di questo personaggio era che fumava un'eccellente marijuana, sia di giorno che di notte. Aveva l'uniforme con eterne macchie di grasso, di vino, emanava un odore di spazzatura e sporcizia e la gente gli aveva dato il soprannome lo scarafaggio, appunto, la cucaracha. La versione più generalmente cantata dalle truppe rivoluzionarie dice: lo scarafaggio non può camminare ormai perché non ha, perché gli manca, marijuana da fumare. Un'altra strofa dice: un panettiere andò a messa, non trovando che cosa pregare, chiese alla Vergine pura marijuana da fumare. Nuova allusione ad Orto, quello del panettiere, intesa per il fatto dei suoi impasti politici. Ma la rivoluzione messicana fu un movimento di fazioni e, come è logico, ogni fazione ebbe la sua propria variante della cucaracha. Ci furono cucarache villistas, zapatistas, carencistas e in qualche momento persino huertistas. Tuttavia, visto che Orto riuscì a farsi odiare da tutti i messicani, le versioni di tutte le tendenze inclusero strofe contro questo individuo tenebroso, traditore e meschino. Tra le tante versioni politiche, militari, guerrigliere, non potevano mancare versioni più calde, alla messicana, adatte alle feste e alle serate alcoliche. Queste versioni sono quelle più conosciute ora e sono quelle cantate in Messico per i turisti. La versione che ascoltiamo ora è invece una delle prime e più originali della rivoluzione messicana. Voy a cantar un corrido que anda en toditas las voces de una mujer de la tropa que todo el mundo conoce en el pueblo de conejos por una calle muy quieta. Viene triste y derrotado el valiente Antonio Zeta. La cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Iban los tres en silencio, sus pensamientos rumiando, mientras el destino ciego los hilos iba tramando. En los cascos del caballo suena el polvo del camino, ya se van llorando un cariño malogrado. La cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Ya el águila voló, ya el nopal quedó solito, el fruto de tus amores ya no dista del olvido. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar entre cuatro sopilotes y un gato de sacristán. La cucaracha, ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Y aquí termina el corrido que cantó a la cucaracha. Vado a Cochabamba, signori, canteranno gli usignoli, vado a Cochabamba. Inti, inti di qua, inti di là, inti a nord, inti a sud, attenti alla CIA che vengono i gusanos, non uccideranno Regì e andiamo compagni. Se li son persi, sono riapparsi, era una bugia che la guerriglia era finita. Cochabamba è una città della Bolivia, meta di un grandissimo raduno quechua in occasione del pellegrinaggio al Cristo de Santa Vera Cruz. Inti e Regì sono due guerriglieri che hanno combattuto con il CE in Bolivia, Inti Peredo, colombiano, e Regì Debré, francese. I gusanos, invece, sono cubani anticastristi. Questo è il testo della canzone di Victor Jara del 68, A Cochabamba me voy. Cochabamba, hermano. A Cochabamba me voy, a Cochabamba, señores, cantarán los ruiseñores. A Cochabamba me voy, Inti. A Cochabamba me voy, a Cochabamba, señores, cantarán los ruiseñores. A Cochabamba me voy, Inti. Inti pa' allá, con core, con core. Inti pa' acá, con core, con core. Inti pa'l norte, con Cocoreco. Inti pal West. Cocoreco. Cuidado con la CIA. Cocoreco. Que vienen los gusanos. Cocoreco. No maten a Regil. Cocoreco. Y vámonos, hermano. Cocoreco. Ratatatata, se les perdieron. Ratatatata, aparecieron. Ratatatata, era mentira que se acabaron las guerrillas. Ratatatata, se les perdieron. Ratatatata, aparecieron. Ratatatata, era mentira que se acabaron las guerrillas. A Cochabamba me voy, a Cochabamba señores, cantarán los ruiseñores, a Cochabamba me voy, Inti. A Cochabamba me voy, a Cochabamba señores, cantarán los ruiseñores, a Cochabamba me voy, Inti. Simón Bolívar, chiamato El Libertador, il Liberatore, combatté gli spagnoli e portò all'indipendenza Bolivia, Panama, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela. Nacque nel 1783 a Caracas, Venezuela. I suoi genitori morirono quando lui era un bambino ed ereditò una fortuna. Da giovane, quindi, poté viaggiare molto in Europa. Quando ritornò in Venezuela, Bolívar si unì al gruppo di rivoluzionari che liberarono Caracas nel 1810 e proclamarono l'indipendenza dalla Spagna. Gli spagnoli costrinsero Bolívar a ritirarsi dal Venezuela, ma fu catturato a Bogotà nel 1814. Fuggì da lì in Giamaica, poi ad Haiti, dove raggruppò un gruppo di rivoluzionari e sbarcò in Venezuela nel 1816. Prese Angostura, ora Ciudad Bolívar, e sconfisse gli spagnoli nel 1819, liberando così il territorio della Colombia. Organizzò la Repubblica della Colombia, ora i territori di Ecuador, Colombia, Panama e Venezuela, e Bolívar divenne il suo primo presidente il 17 dicembre 1819. Nel 1821, il 24 giugno, Bolívar attaccò gli spagnoli in Venezuela. In seguito marciò anche sull'Ecuador e aggiunse il territorio alla Repubblica Colombiana, assieme anche al Perù. Il Perù superiore divenne poi uno stato separato, mentre quello meridionale, la Bolivia, fu chiamata così proprio in onore di Bolívar nel 1825. Il Libertador Simón Bolívar morì il 17 di dicembre del 1830. Simón Bolívar, Simón, caraqueño americano, el suelo venezolano le dio la fuerza a tu voz. Simón Bolívar, Simón, nació de tu Venezuela. Y por todo el tiempo vuela como candela tu voz, como candela que va señalando un rumbo cierto en este suelo cubierto de muertos con dignidad. Bolívar Simón, revivido en las memorias que abre otro la historia. Te espera el tiempo, Simón. Simón Bolívar, razón, razón del pueblo profunda, antes que todo se hunda, vamos de nuevo, Simón. Simón Bolívar, Simón, en el sur la voz amiga es la voz de José Artiga, que también tenía razón. Con Simón Bolívar del gruppo cileno Inti Illimani si conclude questa seconda parte di Variabile Fahrenheit sulle musiche di lotta latinoamericane. Ricordo l'indirizzo email antropofago@scatolanera.ch per eventuali richieste di maggiori informazioni sulla trasmissione o sui contenuti. A risentirci da Antropofago.